trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Radio Imago, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Ciao a tutti. Allora Antonio, non riusciamo mai a iniziare in orario. Io lo so, questa cosa è pazzesca. 4 minuti di ritardo. Chi ci sta ascoltando in podcasting non è molto interessato da questa tua annotazione. Siamo nella sincrono. Ormai siamo svincolati dagli orari, dai palinsesti. Questo è il futuro della radio. Ne parlavamo, no, l'altro giorno con Andrea Lauendel. Sì, vero. Però dovremmo essere più rigorosi, eh? Hai ragione. Forse questa volta ti do ragione. Oggi parliamo ancora una volta di un argomento che ci è caro, in qualche modo ci appartiene, che è quello dei barcamp. Questi, ma adesso non vorrei dare una definizione accademica, mi limito a dire che sono dei luoghi in cui la gente che fa un uso intenso o comunque evoluto di internet si incontra realmente, cioè finalmente queste persone si incontrano, si conoscono in carne ed ossa, scambiano idee e stanno scrivendo pagine importanti nell'innovazione, nell'evoluzione delle tecnologie. Ma secondo te questa evoluzione dipende dal fatto che si incontrino o no? Ah, c'è chi sostiene che il fatto che si incontrino rallenta in realtà, ecco. L'evoluzione diventa, come spesso succede, un'occasione per scherzare, per conoscere anche le persone che sono dietro questi esperti, questi signori. Però, che dire, insomma, l'altro giorno il professor Epifani diceva che in realtà queste cose sono sempre esistite, i raduni, esatto. Cioè adesso si chiamano barcamp. Bravo, io non volevo dirla perché poi dite che io sono sempre la contraria, ma questa cosa esiste da anni, da quando esiste internet. Va bene, ma siccome non tutti hanno avuto la fortuna di partecipare a uno di questi incontri, proviamo ad entrare nell'atmosfera con uno dei nostri inserti sonori. Camp è un momento per comunque parlare di cose che generalmente non vengono affrontate poi sempre, e ho pensato di cosa parlare. Per esempio si potrebbe parlare, visto che siamo a Roma, la città dei ministeri, si potrebbe iniziare a parlare, non so, del rapporto che noi abbiamo, noi progettisti per esempio, o comunque noi persone che ci occupiamo della comunicazione in qualche modo su internet con la pubblica amministrazione, quindi con gli enti locali, i ministeri, tutte queste belle cose che si trovano in questa grande e tentacolare città. Dati recentissimi di Nielsen Net Rating di dicembre 2006 dicono che gli utenti internet in Italia hanno superato quota 20 milioni. La media di connessione rimane però bassa, perché è di circa 16 ore e mezza al mese e quindi una media di 33 minuti al giorno per ogni utente. Volevo fare una presentazione web 2.0. Cioè la presentazione web 2.0 è comunque, non so, visto che oggi se ne parla tanto, ho detto ma perché fare uno slideshow normale? Faccio una presentazione web 2.0. Allora sono andato su Flickr e mi sono messo a cercare per ogni argomento un'immagine, una foto, ovviamente Creative Commons. C'era anche una musica, la musica non la trovo più. La riflessione che sto tentando di fare è come cambia la comunicazione di impresa con i nuovi media, perché ovviamente i nuovi media hanno delle caratteristiche nuove rispetto ai media di massa che hanno un impatto a volte dirompente, a volte meno importante, su quella che è la pratica codificata della comunicazione d'impresa. Perché la pubblica amministrazione realmente vuole un sito web? E questa è la domanda principale, perché in realtà chiunque abbia avuto delle relazioni da vicino, dopo un po' di tempo si trova in mezzo a tutta una serie di difficoltà, per cui uno dice ma perché questi vogliono effettivamente un sito? Perché pare che ti mettono i bastoni tra le ruote in ogni modo. Sono Robin Good e nello spirito di questo non evento vorrei fare una non presentazione, e quindi non vorrei stare dalla parte dei saccenti, vorrei stare allo stesso livello vostro e non ho niente da presentarvi. Sono qui solo per rispondere a delle vostre domande. Quando si va a fare una riunione con loro, è una grande festa, cioè per loro è una grande festa. Noi siamo tristi, distrutti, cioè, ci dicono cose assurde, folli. Però è una festa, si divertono come dei pazzi perché sentono, sentono aria fresca, cose nuove, notizie. E questo è uno dei motivi. E in realtà in questa presentazione poi si vedrà un po' più avanti quali sono poi i motivi strutturali. Ci sono dei motivi veri per cui la pubblica amministrazione fa questo. Rispetto all'universo internet italiano, solo 2,2 milioni, sempre secondo Nielsen, hanno usato Skype durante il mese di dicembre e 2,2 milioni di utenti si sono connessi almeno una volta a YouTube. La narrazione di un evento cambia. Che cosa significa questo sul comunicatore? Il comunicatore non si può più solamente, limitare a produrre il suo pezzo di comunicato stampa e a spedirlo magari in formato PDF. Cioè noi vediamo comunque, abbiamo un'immagine molto brutta della pubblica amministrazione, e anche se si mette i capelli biondi c'è poco da fare. E così è la stessa cosa, la pubblica amministrazione è una persona di questo tipo che poi si mette la parrucca, la gonna, le calze, ma rimane sempre comunque in qualche modo la persona che è. Allora, dovremmo avere in linea un ragazzo che si è cimentato in questa impresa di organizzare un barcamp che si svolgerà tra qualche settimana, tra qualche mese, è Dario Salvelli. Ciao Dario, buongiorno. Buonasera a te Antonio e a Daniela. Hai ragione. Ciao. Hai ragione a dire buonasera, ma io mi rivolgo anche ai podcaster. Dai, con questi podcaster, dai. Buongiorno anche ai podcaster, dai. Buonasera ai podcaster. Allora, tu sei, oltre che l'organizzatore del prossimo Royal Camp di Caserta, di cui magari poi ci parlerai, anche un illustre blogger tecnologico. Mi puoi dire il sito esattamente del tuo blog? Sì, l'indirizzo è www.dariosalvelli.com. Ecco, dovrebbero fare tutti come te, perché questa volta non c'è neanche bisogno di scriverlo sul sito di Radio Mago, si capisce perfettamente. Allora, Dario, abbiamo ascoltato in questo collage alcune voci di barcamper con l'obiettivo non tanto di lanciare dei grandi temi, quanto piuttosto quello di rendere radiofonicamente il clima, no, di questi barcamp. A questo punto io forse non dovrei chiederti che cos'è un barcamp, perché la nostra non è una trasmissione divulgativa, però forse in questo caso ce lo devi comunque spiegare, perché a differenza di altri fenomeni nati sulla rete, la stampa continua a non parlarne tanto, quindi a costo di essere ripetitivi, che cos'è un barcamp? Che cos'è un barcamp? Una rete, possiamo dire, internazionale di non conferenze aperte, ossia un posto in cui, come avete detto voi, esperti del settore delle nuove tecnologie, del web, o anche semplicemente blogger, chiunque ha un blog, si riunisce, discute delle tematiche a loro care, quindi in questo caso parliamo di sempre temi inerenti al web, e in maniera molto informale ognuno fornisce delle presentazioni. Devo esserti sincero, la stampa e anche i media televisivi stanno iniziando a snobbare meno questo fenomeno, tra virgolette, che è partito dagli USA un po' di tempo fa. C'è stata una prima edizione dell'evento a settembre 2006 e ora ormai i barcamp sono in una diffusione, direi, quasi esponenziale in Italia. Senti, io vorrei approfittare del fatto di avere un vero organizzatore, perché qui un sacco di gente si agita e dice sì, ho fatto il barcamp eccetera, ma qualcuno che veramente ha investito tempo e anche risorse finanziarie, perché insomma un minimo di investimento finanziario ci vuole, Non l'abbiamo mai avuto finora in radio, quindi vorrei chiederti come si organizza e soprattutto chi paga, se permetti. Ho avuto i tuoi stessi dubbi anch'io, perché mi sono trovato ad affrontare delle problematiche nella ricerca degli sponsor, di una struttura adeguata. In pratica tutti gli altri barcamp si sono svolti con aiuti di pochi sponsor che hanno offerto, hanno dato le loro disponibilità, trovando l'idea abbastanza innovativa. Come si organizza un barcamp? Ci sono sul sito barcamp.org delle risorse a disposizione di chiunque voglia organizzare un evento del genere. Ovviamente a seconda dell'evento che si vuole realizzare, della tematica, perché sono nati dei barcamp, dei raduni tematici, cambia il modo di affrontare la questione. La location che ho scelto per quanto riguarda i barcamp è ad esempio la Reggia di Caserta. Un monumento. Ci sei andato pesante, però. Insomma, la Reggia di Caserta. Cioè, siamo passati dal Linux Club di via Ostiense, via di Libetta. Esatto, ci siamo andati abbastanza pesante perché volevamo, poi magari ne parleremo, riunire insomma antichità e modernità in un contesto abbastanza interessante a mio punto di vista. No, parliamone. Cioè, dimmi, allora, c'è una data per questo barcamp? Allora, proprio oggi ho avuto diverse novità. Innanzitutto si sta organizzando con la provincia, quindi con le istituzioni. Per la data è stata slittata purtroppo a metà novembre, però molto probabilmente salterà anche metà novembre e ci sarà una data certa e sicura in primavera 2008. E se uno volesse, scusami, se uno volesse essere aggiornato sulla data, cioè sapere, cioè, normalmente queste informazioni dove si trovano? Perfetto, allora ti do due link. Uno è quello del ufficiale, il wiki, ovvero lo strumento al quale iscriversi e leggere di cos'è il Rover Camp, di tutte le attività che si svolgeranno quella giornata. Ed è il seguente, barcamp.org/royalcamp, R maiuscola e C maiuscola. Va bene. Io ho un paio di domande per il nostro amico. Tu stai prendendo, cioè stai organizzando questo evento che sta slittando, la cui data sta slittando. Sì. Questa cosa dipende da cosa? Cioè, cerchiamo proprio di capire materialmente quali possono essere le problematiche che una persona che decide di organizzare un evento si rischia di trovarsi ad affrontare. Sì, dipende essenzialmente dalla struttura che abbiamo scelto. Purtroppo per avere delle autorizzazioni ci vogliono dei tempi più lunghi, poiché la Reggia di Caserta, essendo un complesso monumentale, patrimonio dell'UNESCO, ha bisogno di alcune, è sotto l'istituzione della soprintendenza dei beni culturali, quindi per avere per poter organizzare qualcosa all'interno di alcune sale. Ok, quindi dipende solo esclusivamente dalla scelta della location che hai fatto tu, non dal fatto che siano intervenuti regioni, no, provincia. Dipende esclusivamente dalla scelta della location, che appunto è abbastanza complicata da ottenere, quindi chiunque vuole organizzare un barcamp e si vuole rivolgere a un'università oppure a qualsiasi ente offra spazi pubblici, diciamo. Sì, dei spazi pubblici, sì. È un ente che offre un suo locale, uno sponsor che offre un suo locale, lo può benissimo fare come è stato fatto finora. Posso dare un sito di riferimento che è quello dei barcamp italiani, dove ci sono tutti i barcamp già effettuati finora e quelli attivi, tra i quali anche i loro barcamp. Il sito è www.barcampitalia.org. Quindi se volete organizzare un barcamp, informatevi sul sito internazionale che è barcamp.org o comunque leggete i blog che ormai sono pieni di post riguardanti i barcamp. Un'altra domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Visto che tutto il tempo che stai spendendo per questa organizzazione deve essere tremante. Sì, è abbastanza pesante e dispendioso, me lo sono chiesto anch'io, però la cosa fondamentale è questa. Finora i barcamp si sono fermati a Roma e a Matera, ce n'è stato uno a Matera. Il sud è stato un po' bistrattato, non considerato, forse perché ci sono pochi movimenti qui, molte aziende si trovano Milano, Roma, e quindi mi sembrava giusto avvicinare la realtà, questa realtà del sud e comunque della Campania, ai temi delle nuove tecnologie e comunque del web. Insomma, poche persone sanno che cos'è un blog, è uscita una ricerca di Nielsen, ne parlava qualcuno nelle voci che avete messo precedentemente. Era Luca Conti, uno qualsiasi. Di pandemia, che il 52% degli abitanti della penisola non ha alcuna familiarità con il web, quindi se passiamo dalla fase dei semplici raduni di blogger o raduni come se una volta veniva nelle chat, in quelle di IRC, in quelle di Cataweb, invece una fase in cui riusciamo a coinvolgere pubblico che non è molto avvezzo a questi argomenti, credo sia un passo in avanti abbastanza importante. E Royal Camp può essere, insieme a tanti altri eventi, un'occasione, uno spunto per portare nuove tecnologie o avvicinare internet a persone che non navigano spesso. Ma i barcamp non sono un luogo di ritrovo di persone esperte? Esatto, sì. Questo passaggio che spiegavo ora era proprio quello che vogliamo cercare di realizzare. Cioè, tu quindi non vuoi fare un barcamp normale dove metti insieme tutti gli esperti che si parlano e si raccontano? No, vogliamo fare una divulgazione, quindi. Sì, finora è stato così e credo che sia produttivo, ma fino a un certo punto, perché se ancora ci sono persone che non conoscono che cos'è un blog o che cos'è un wiki o che cosa vuol dire collegarsi, andare su, non so, avere un programma di messaggistica istantanea. Microsoft qualche tempo fa ha detto che in Italia ha circa 10 milioni di utenti che utilizzano MSN Messenger. Mi sembra anche un po' esagerato come dato, forse ancora non tutti conoscono queste tecnologie. Mi sembra giusto sfruttare un evento del genere per passare a una fase successiva. Online ci sono state tantissime discussioni su questo, però credo che riunire degli esperti soltanto e rinchiuderli lì, ok, favorisce la conversazione, favorisce la conoscenza tra persone che magari si leggono online, però rimane qualcosa di chiuso, qualcosa legato a una stretta cerchia. Io vorrei cercare di far sì che questo barcamp diventi un'opportunità anche per chi non conosce questi temi, di approfondirli, di magari di avere illuminazioni, idee, di partecipare a progetti che possono nascere in quel giorno anche da semplici chiacchierate informali come è stato finora. Va bene, allora io ti ringrazio intanto per questo primo importante contributo. Facciamo una piccola pausa musicale e poi proveremo ad approfondire ulteriormente. Ti ringrazio. Sono i sintomi di questa autoreferenzialità, cioè quei lum piemontese. Parlo troppo di noi stessi, parliamo troppo a volte di noi stessi, ok. Si considera la blogosfera a world apart. Di qua ci sono i media tradizionali, gli uomini, le donne, eccetera, la blogosfera. che è un modello interessante, però poco realistico a mio parere. Tra l'altro Robin Hood, che è sparito prima, ha detto secondo me una cosa di cui io vorrei parlare dopo, cioè quello che porta quintalate di visitatori su tutti gli oggetti che stanno in rete non è Tecnorati, è Google. E quando uno arriva sul mio sito via Google non sta a farsi da uno normale, come dire il signor Bianco, quando arriva su un sito non sta a pensare se quel sito è un blog, un cazz. Se vede che so io BBC, si fa un ragionamento, ah, questo è un inglese, però è già un, se è un italiano è uno user avanzato perché ha cercato già una cosa strana in inglese, ok? Come? E, per cui il problema è che il driver più forte è Google, e quindi noi ci cali, cioè io, scusate il noi autoreferenziale, la blogosfera si cala in un mondo che non è la blogosfera, è l'internetsfera, chiamatela come cazzo vi pare a voi. Quindi è un mondo fatto dal signor Bianco, dalla signora Cerevico, sempre due piani di sotto, e probabilmente dalla signora di su che si chiama Iossetti, fa l'attrice, meglio che non la citi troppo perché è abbastanza famosa. Quindi fa la mele visioni. E quindi il problema è che questo ci chiude. Cioè, se si poteva uscire dall'enclave, noi ci stiamo chiudendo. E non è bello, perché secondo me, ve l'ho detto all'inizio, da questo mondo viene fuori un sacco di cose interessanti. Probabilmente è uno dei mondi più svegli che ci siano, però se si fa delle pippone non va. Allora Dario, uno dei mondi più svegli che ci siano, però se ci facciamo delle pippone non va. Quello della autoreferenzialità della blogosfera è un tema trito, ritrito, anche troppo sfruttato, però è proprio quello di cui parlavi prima, cioè finora molti barcamp si sono un po' rinchiusi, no? Dentro loro stessi, e hanno tenuto fuori la grande massa di persone che potrebbero beneficiare dei tanti strumenti di internet. Tu come la pensi? Ma sono completamente d'accordo. Guarda, c'è... No! Beh, la famosa macumba! È la macumba di Proxy Bar, è caduta la linea, va bene. Decisamente. Dimostra che siamo in diretta. A questo punto lo chiedo a te intanto, Daniela. È interessantissimo, io sono rimasta basita da questo tuo intervento che hai postato, cioè l'intervento che hai postato, cioè questo piccolo inserto che ci hai regalato. Allora, abbiamo sentito Vittorio, dobbiamo dire di chi era questa Vittorio voce. Vittorio Vasteris, ma è... È uno, è uno dei blogger più importanti, più influenti, che riescono a capire anche quello che succede dietro le quinte, a dare interpretazioni sociologiche, spesso antropologiche. Lui è un provocatore, ha un linguaggio anche, abbiamo sentito, un po' colorito. Ci ha portato nell'atmosfera del barcamp di Roma, no? Con la metro che passava, non so se l'hai sentita, eravamo vicini alla metro B. È stata una giornata... il suo è stato uno degli ultimi interventi, se ben ricordo, ed erano rimasti solo i duri e puri. Intanto penso sia rientrato il nostro ospite. Forse è tornato il nostro ospite, sì, benissimo. Allora, Dario, ci senti? Sì, ci sono, è caduta la linea. Era caduta la linea, poco male, capita. Siamo in diretta. Nessuno deve dire il bello della diretta, altrimenti mi dimetto dal Radio Mago, seduta stante. Dicevamo... dobbiamo rimanere chiusi in noi stessi, oppure il Royal Camp è proprio un tentativo di aprire, no? A quelli che finora dispregiativamente abbiamo chiamato gli utenti comuni. Sì, il Royal Camp a parte è un tentativo di aprire anche a chi le cosiddette non blog star. Tu sai che ci sono state polemiche, discussioni, post e contropost, articoli sulla cosiddetta autorevolezza, nel senso molti blogger, anche avendo un gran curriculum o comunque un'importanza per le cose che, per i contenuti che esprimono sui loro siti o comunque sui media con i quali collaborano, hanno scatenato, insomma, tra invidia e rivalità, cose che sinceramente hanno poco a che fare con una divulgazione di una cultura della tecnologia o comunque anche della curiosità. Ma siamo umani, questo dobbiamo sempre considerarlo. Tutti i meccanismi che vediamo nella rete sono gli stessi che ci sono nel reale. Esatto. Qui secondo me la gente si dimentica di questa cosa. Non è un mondo perfetto, ragazzi, è come il mondo reale. Allora, anzi... Daniela, voglio aggiungere una piccola annotazione. Anch'io sono stato accusato a volte di essere snob, forse per questa mia passione per il concetto di becerume che sto declinando in ogni modo. E allora, proprio per dimostrare il contrario, mi sono calato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nella grande latrina, come qualcuno l'ha definita, di MySpace. proprio perché secondo me invece MySpace è il segno di una grande intelligenza della rete che ha capito che gli utenti cosiddetti comuni sono in realtà la grande ricchezza della rete. MySpace è un social network che rompe questo, secondo me, che rompe questa sfera di cristallo, questo mondo dorato delle blog star, e comincia a dare i benefici della rete, dei network, anche attraverso il collante della musica, no? Che su MySpace gioca un ruolo molto importante, presso appunto l'universo mondo di questi 188 milioni di utenti, diciamolo perché non è secondario, che ha MySpace, mentre guarda caso gli altri social network come il mitico Twitter, come Flickr, come Dig, Delicious e quant'altri, insomma lì si ragiona in termini di poche centinaia di migliaia. Io cerco di utilizzare gli strumenti in funzione di quello che mi danno. E per la radio io ho cercato di capire se aveva senso o meno aprire uno spazio su MySpace. La necessità di usare tutti gli strumenti per poter dire io ce l'ho, l'ho usato, lo faccio, secondo me è un non senso. L'utente singolo su MySpace cosa fa di diverso da un blog? Non me lo devi spiegare. Ha degli strumenti in più e soprattutto può, secondo me, giocare sulle leve emotive, cioè non gioca necessariamente sugli interessi da condividere, che sono importantissimi per carità, ma se una persona ti piace perché ti piace la fotografia o perché ti piace la musica che ascolta, ma senza per forza dover scambiarsi competenze, che non è così importante, non è grave, l'importante è conoscere le persone anche se sono infinitamente diverse da noi. Non è così importante, sì, cercare le persone simili, perché solo cercando di conoscere persone diverse ti arricchisci. Dario, scusaci, ma no, qui no. C'è un continuo dibattere tra noi conduttori, perché la vediamo in modo radicalmente diverso su molte cose. No, vi ascoltavo con interesse, anzi, il 2.0 di cui tanto si parla è proprio fondato su questa socialità di cui Antonio parlava. MySpace, i social network hanno come caratteristica comune alla fine la condivisione, che poi è di competenze, di interessi o di messaggini che ci si scambia perché ti piace la foto o perché si hanno musica, gusti musicali in comune, come ad esempio come sull'Ast.fm. Dario, perdonami se ti interrompo, ma per la condivisione non ho bisogno del 2.0, ragazzi, cioè tu parlavi di BBS, parlavamo di chat con la riga di comando, lì era già condivisione. Non riempiamoci la bocca di sti numeri, di queste cose che fanno tanto moda. Esatto, ma ho scritto un post che collaboro con html.it dicendo che il 2.0 è quasi una burla sociale, insomma la socialità può avvenire anche nella real life, nella vita reale, senza dover usare assolutamente alcun strumento 2.0 proprio perché è una moda, perché fa tanto geek o nerd, perché siamo mai connessi online sempre più tempo. Anche questa però è un po' una beffa. Hai sentito le statistiche? Dicevano che a dicembre sono 16 ore al mese un utente medio italiano, quindi significa 30 minuti al giorno neanche. Sì. Cifre ridicole. Considerando che poi ci siamo utenti come noi che ce ne passiamo 15 di ore collegate, la media è decisamente più bassa. Se mi permettete, io vorrei fare una becera semplificazione, cioè tolgo tutte le mie coperture razionali e provo a dire semplicemente che ormai esistono social network caldi, che sono quelli legati alla vita offline delle persone, semplificando MySpace, Facebook, e poi ci sono i social network freddi, come Dig, Delicious o la stessa Second Life, dove in realtà condividiamo la nostra vita online. Che poi è un tema questo, no? Che si intreccia un po' con quello delle invasioni barbariche. In uno dei barcamp, se non sbaglio a Milano, qualcuno lanciò il tema: oddio, che succederà quando questa gente che non capisce niente comincerà a usare internet? E qui è quel grande snobismo che io personalmente cerco di combattere in tutti i modi, là dove posso avere un minimo di influenza. Beh, stai qui e quindi stai già combattendolo, nel momento in cui tu metti la tua conoscenza a disposizione degli ascoltatori, stai già rendendo le cose più facili. Io prima, se vi interrompo, parlavo di curiosità. Secondo il mio punto di vista bisognerebbe stimolare la curiosità. Voi parlavate di utenti comuni, opinion leader, questa contrapposizione a mio punto di vista non deve esistere. Se riusciamo a sviluppare la curiosità nelle persone, riusciamo a mostrare degli strumenti, a dire posso andare su YouTube e vedermi questo video qui piuttosto che usare Google Maps per raggiungere una zona, quindi anche delle cose abbastanza concrete ed utili che possono servire senza parlare di 2.0 o di social networking, perché non tutti hanno tempo da spendere su internet, magari perché non lavorano su internet, magari perché digital divide in Italia è abbastanza pesante, non permette ancora di essere collegati online con delle flat. A mio parere posso portare un piccolo esempio. Tempo fa c'era una statistica sugli utenti che utilizzavano Mozilla Firefox, che è un browser alternativo al più noto, che è Internet Explorer, che tutti utilizzeranno sul sistema Windows. Ebbene, in Italia, rispetto agli altri paesi europei, devo dire tristemente, ahimè, siamo drammaticamente un po' indietro rispetto ad esempio a paesi come la Danimarca, piuttosto che insomma il Regno Unito. Bene, dunque io, Dario, vorrei, dopo averti ringraziato ancora per questa panoramica sui Barcamp e questa fotografia, diciamo, del web in questo momento, fare un breve cenno prima di chiudere con questa, diciamo, piacevole conversazione a un tema, almeno un paio di temi che hai affrontato recentemente nel tuo blog. Intanto questo simpatico test sulla dipendenza da blog, cioè andando a un certo punto a un indirizzo che si trova sul tuo blog è possibile, rispondendo ad alcune domande, capire quanto ciascuno di noi sta cedendo della propria vita tradizionale per far guadagnare punti alla vita trascorsa davanti al computer o davanti magari al telefonino. Tu l'hai provato? Sì, ho fatto il test, che tra l'altro è in inglese, quindi se non siete avvezzi vi potete comunque orientare. In pratica è uscita tempo fa, c'è stata una statistica riguardo il blog che si chiamava Diario Aperto, ci sono state diverse figure che hanno partecipato a realizzare questa statistica sui blog. Questa statistica mostrava anche il tempo che proprio dedichiamo a leggere i blog, oppure che usiamo per leggere i feed di altri blog, o il tempo che dedichiamo ad informarci, a recarci sui siti di news, Google News, Repubblica. Allora non voglio pubblicizzare nessun sito di informazione, comunque i maggiori media che sono online. La dipendenza da blog, addirittura qualcuno ha associata a un drugs, quasi la droga da blog o da feed. È uscito un libro sul blog addicted, è uscito di recente questo libro sulla dipendenza da blog. Sì, il mio risultato è scarso, del 67%. Accidenti! Quindi, no? Siamo contenti per te. Quindi non sono abbastanza blog dipendente, credo sia dovuto molto da una domanda che c'era in questo questionario relativa a live blogging o comunque alle dirette fatte sul blog utilizzando strumenti come Ustream, ovvero NetTV. In questi giorni diversi esponenti e blogger online stanno realizzando delle dirette, il più noto è certamente Robin Hood, comunque vanno a un evento e in diretta lo trasmettono sul loro sito web, sul loro blog, e molti utenti ovviamente seguono queste dirette. Va bene, senti Dario, noi ti ringraziamo molto per la tua disponibilità e ti facciamo un in bocca al lupo per l'organizzazione di questo evento che sarà mega galattico, e probabilmente ti verremo a trovare. Ma sì, perché a Caserta, tra l'altro, in treno la fermata è a 5 minuti dalla Reggia, se no, 5 minuti a piedi, quindi da Roma è una cosa veramente di un'ora. È comodissimo, la stazione ferroviaria è di fronte in pratica alla Reggia, quindi sono 100 metri, scendi dalla stazione e ti trovi immerso in una realtà sia antica che volendo moderna. Io invito sia voi che gli ascoltatori di Radio Mago, comunque tutti. Segnalaci l'evento quando la data è certa, così lo mettiamo in agenda della nostra Radio Mago. Sì, io vi segnalerò, ovviamente sarà segnato anche sul sito online, sarà pubblicizzato quando ci sarà la data certa. Purtroppo, per questioni che precedentemente ho detto, non abbiamo ancora fissato un giorno preciso, poiché tra la burocrazia e le difficoltà delle autorizzazioni i tempi si dilatano. Va bene, grazie infinite Dario per il tuo tempo, grazie per aver partecipato a Radio Mago, speriamo di poterci sentire presto. A presto. Di sicuro, grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao. stupirti se Imago ti piace così tanto. Il trucco c'è. Il trucco c'è. Si chiama passione. Allora, Daniela, ti è piaciuta questa versione dello schiaccianoci, versione jazzata? Molto. Devo dire, le scelte musicali, degli intermezzi, delle pillole, sei geniale. Senti, ma lo sai chi c'è dietro questa versione jazzata? Allora, è un signore che si chiama Paul Keller. Io sono sicuro che tutte le persone che vedono su RaiSat il Dave Letterman Show avranno rizzato le orecchie, perché è il signore pelato che conduce quella splendida orchestra. E ne approfitto per salutare Dave, che ascolta, è un grande fan di Proxy Bar, ascolta tutte le puntate. Grazie Dave per la tua fedeltà. E l'interprete chi gliela traduce? No, lui conosce perfettamente l'italiano. Anzi, mentre prepara la puntata il giovedì mattina alle 11, no? Perché là sono le 11 del mattino a New York, lui ascolta Proxy Bar e poi mi chiama, chiaramente perché dice che sono il suo maestro, naturalmente. Secondo me le vacanze ti fanno male. Ok, dunque, parliamo un po' del guru di oggi. Abbiamo un'intervista con Pietro Saccomani, che è un esperto di VoIP, di Voice over IP, questa tecnologia che sta rivoluzionando il mondo delle telecomunicazioni. Ha un blog molto, molto seguito sul tema, che è voipblog.it. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Siamo in compagnia di Pietro Saccomani, che ha un bellissimo blog nel quale si è conquistato la fama di esperto di Voice over IP. Il blog si chiama? VoIPblog.it. E da quanto tempo esiste questo punto di riferimento sul futuro del VoIP? Esiste da circa un anno e mezzo, così, è nato un po' per caso e continua per passione, diciamo. Allora, io credo che le persone che così ascoltano queste interviste già conoscano bene o male bene la tecnologia del VoIP. Forse però magari non tutti hanno fatto il collegamento tra il VoIP, che ormai è una tecnologia ampiamente diffusa, direi anche presso tantissime persone, e l'arrivo del WiMAX, che è una cosa che spaventa un sacco di persone, soprattutto spaventa i grandi carrier di telecomunicazioni. Secondo te cosa succederà? Beh, le potenzialità chiaramente sono incredibili, perché ovviamente il VoIP over WiMAX potrebbe sostituire in un futuro la telefonia. Poi bisogna vedere qua in Italia come saranno assegnate le licenze e a chi, per cui chi sarà operatore WiMAX. Poi WiMAX Mobile è un'estensione che potrebbe arrivare probabilmente tra parecchi anni, però comunque la tecnologia è possibile, Samsung l'ha già testata, quindi sicuramente c'è la potenzialità per cui gli operatori di telefonia mobile si trovino a competere direttamente con un operatore WiMAX che possa offrire anche telefonia attraverso il VoIP sui telefonini cellulari, che a questo punto non saranno più telefoni cellulari ma saranno telefoni WiMAX. Ecco, c'è una cosa abbastanza interessante: si vedono alcuni produttori di hardware, no? Di telefonini, in particolare la Nokia, che sui modelli più recenti hanno quasi tutti inserito, diciamo, le funzionalità WiFi, altri no. Tu pensi che vi sia un legame anche politico tra le case che producono telefoni e i carrier da un lato? Cioè, chi si sente abbastanza forte da poter essere autonomo sceglie di dare questa opzione, chi non si sente forte in realtà ancora ha paura. Sono assolutamente d'accordo, no? Che è leader nel mercato sicuramente europeo dei telefoni cellulari, e ha sicuramente la forza, comunque lavora con gli operatori di telefonia mobile, ma sicuramente la forza contrattuale per poter fare delle scelte in prima persona, inserendo il WiFi, e non solo il WiFi ma anche il VoIP, in quasi tutti gli ultimi smartphones Nokia sono equipaggiati con un client VoIP integrato, che configurato anche semplicemente con un operatore anche italiano, è possibile chiamare attraverso il VoIP via WiFi. Non solo, Nokia ha appena sviluppato un software che, oltre al VoIP che è integrato già nel telefono, aggiunge al telefonino le funzionalità di instant messaging, quindi messaggi istantanei, e presence, ossia si può controllare nella lista contatti del telefonino chi è collegato e chiamarlo attraverso un servizio che è fornito da una società americana che si chiama Gizmo Project, Sipphone, e per cui questo secondo me è un segnale abbastanza importante da parte di Nokia. Credi che a questo punto, scusa, i telefoni che vengono venduti esclusivamente per usare Skype sono destinati a sparire, perché la gente userà comunque i cellulari o magari il telefono di casa sempre per il VoIP? Certamente sì. Il VoIP mobile secondo me ha il suo significato particolare, perché chiaramente gli operatori di telefonia mobile hanno sempre avuto tariffe piuttosto elevate, in certi paesi addirittura non c'è una grande copertura all'interno degli edifici, per cui anche attraverso wifi si può superare questo limite, e oltre a questo soprattutto c'è il vantaggio della convenienza economica, per cui quando uno si trova a dover fare ad esempio chiamate all'estero internazionali, ci sono vari meccanismi che sfruttano il VoIP in diversi modi, anche non solo attraverso wifi, e permettono notevoli risparmi. Quindi secondo me il VoIP mobile avrà sicuramente un futuro. Però ti faccio la domanda veramente da un milione di euro, da molti milioni di euro a questo punto. In questo momento viene visto il VoIP dai carrier come più una minaccia, una issue, però qualcuno intravede invece in realtà per loro un'opportunità. Che cosa dovrebbero fare per trasformarla da una minaccia in un'opportunità? Beh, secondo me ci sono vari sviluppatori di software che producono software VoIP e instant messaging, che secondo me hanno una forte attrattiva verso una fascia di pubblico che è quella dei teenagers, e non solo chiaramente, ragazzini abituati a vivere costantemente online e scambiarsi messaggi dal computer, e questi continueranno a farlo sicuramente sul telefonino se gli è data l'opportunità di farlo. Secondo me il futuro è nell'apertura da parte degli operatori a questi servizi anche sui telefoni cellulari. Secondo me ci sono anche opportunità di business per gli operatori, perché si può arrivare anche a soluzioni che non impongono uno stress sulla rete dell'operatore, perché ad esempio la chiamata può essere trasferita attraverso la rete GSM invece che attraverso dati, quindi in VoIP puro. Ossia il telefonino chiama un numero di un gateway, di un server, che poi lo mette in contatto ad esempio con un utente Skype o con un utente di un altro Messenger o di un altro software di questo tipo. Devono smettere di ragionare in termini di ARPU, come si faceva fino a qualche tempo fa con i cosiddetti servizi VAS, no? I servizi, certo, a valore aggiunto, e cominciare a ragionare in modo più aperto. Io ne sono assolutamente convinto, spero che questo sia il futuro. Certi operatori come Tre hanno dimostrato un certo interesse su questo fronte, e credo che sia prossima una novità dell'offerta che hanno attivato già in Inghilterra, alcuni telefoni su cui è già preinstallato Skype, che non è esattamente Skype, però è un software che funziona come ho appena spiegato, sia chiamando un gateway via GSM, e instant messaging e altri servizi. Sicuramente io vedo un grande potenziale nell'internet, nel web mobile, perché la possibilità di accedere alle informazioni e ai servizi ovunque sia, in qualsiasi momento, con ovviamente una struttura di prezzo adeguata, perché le tariffe attuali sono piuttosto proibitive per l'utente, io credo che ci sia un grande futuro. Secondo me l'operatore deve adattarsi a un ruolo che è sicuramente quello di fornire e abilitare questi servizi piuttosto che, e competere sul servizio finale piuttosto che continuare a difendere il proprio business. Sono assolutamente convinto che non sia assolutamente facile, per cui grazie. Niente. Grazie. Allora, questo era Pietro Saccomani. Da un bar camp? No, veramente da Tessarolo. Sì, alla presentazione del libro abbiamo fatto tutte quelle interviste, per questo c'era questo sottofondo di gente un po' vociante, anche un po' barcollante, perché c'era del vino molto buono. Io mi sono astenuto per tutta la durata delle interviste e merito un monumento per questo, perché c'era del vino veramente niente male quella sera. Bene, allora Daniela, siamo arrivati in chiusura, però prima di lasciarci vorrei che tu ci parlassi un attimo di quello che sta succedendo là dove io ancora non ho messo piede, cioè l'anfiteatro di Radio Mago su Second Life. Ecco, mi ci mancava Second Life nella mia vita, tu immagini, sì? È un mondo che stiamo ancora studiando, però già iniziamo a fare cose grazie alla collaborazione di Mediterraneo, che è la land che ci ospita e ci dà un supporto tecnologico. Ieri abbiamo fatto la nostra prima uscita dal vivo, nel senso che abbiamo animato una festa a tema sul Rocky Horror Picture Show e grazie alla nostra collaborazione c'è stato un DJ che ha letto le varie chat, quindi poteva in contemporanea commentare le cose che accadevano, quindi è stato molto divertente. Scusa se ti guardo con questi occhi un po' strani, perché tu mi racconti di cose che io, finché non andrò proprio seriamente a vedere, non posso capire al 100%. Ok, allora immaginati un ambiente 3D virtuale dove tu hai il tuo personaggino chiamato Avatar. Sì, quindi ci arrivo, grazie. E dove incontri altri Avatar in delle location che si chiamano land, raggiungibili con una slurl. Va bene, ok Daniela, facciamo così, diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori sulla nostra land, la slurl, cioè l'indirizzo di Samurai, esatto. Si trova sul sito di Radio Mago, eccetera eccetera, ci sono tante belle cose. Però attenzione, no, c'è una cosa bellissima, questa sera c'è l'inaugurazione di un nuovo locale a Venezia che si chiama Serenissima la Notte, dove anche questa sera saremo noi gli animatori della serata, quindi io ti chiedo, vieni. Va bene, mi sono fatto comprare un nuovo router ADSL, forse questa volta ce la farò. Grazie a tutti per l'ascolto, a giovedì prossimo. A presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.